I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. La nottata in discoteca a Castellaneta Marina e poi il viaggio di ritorno. 56 morti in incidenti stradali nella sola provincia di... Avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 22 settembre, il giovane centauro morto la scorsa notte. È risultata positiva la cocaina la 28enne di Vigonza che venerdì sera ha travolto e ucciso uno scooterista di... Erano da poco trascorse le 6.30 di lunedì quando all'incrocio regolato da semaforo tra via Unità d'Italia e via Vindicio a Formia due moto... C'è poca voglia di parlare tra gli amici di Luciana e... Enrica e Simona. Le vittime che viaggiavano su una Fiat Punto sono Marisabel Di Castri, di 17 anni. E poi ci sono Felicitas che voleva diventare medico, Julius che sognava di fare il calciatore, Julian l'architetto e ancora Rita, Catarina, Filippo e Janine che aveva da poco vinto la sua sfida al cancro. Rientravano in albergo dopo una serata in allegria. Un'auto li ha travolti e uccisi tutti insieme. Il gravissimo incidente in Valle Aurina, 7 ragazzi tedeschi morti tutti insieme e poi prima il caso di Gaia e Camilla investite a Corso Francia a Roma, insieme a decine di altri incidenti, più spesso confinati alle pagine delle cronache locali e al dolore delle proprie case, hanno fatto drammaticamente ricordare a tutti noi che sulle strade purtroppo si continua a morire, che le vittime, sia pure in diminuzione, restano comunque troppe, il più delle volte giovanissimi, molto spesso uccisi da incidenti provocati da velocità, alcol, droghe, ma sempre più dalla distrazione. Un elemento non sufficientemente contemplato, secondo gli stessi magistrati, dal reato di omicidio stradale. Così, anche se tanto per ridurre i morti è cambiato, resta, come sentiremo, ancora molto da fare. 16 anni, quel giorno, 4 mesi. Faceva. Il primo istinto è stato dirgli di no perché aveva piovuto molto durante la notte e invece poi ho detto vabbè sì vai, tanto insomma, è vicino. In procinto di andare in ospedale a trovare la sua compagna e la bambina che era nata il 3 febbraio e la mattina del 5 febbraio lui, avendo finito la sua attività nel locale perché si stava recando con lo scooterone, invece un tassista gli ha fatto inversione a U ed è morto sul colpo. Una serie di avvallamenti, un maledetto guardrail e una sorte che forse aveva deciso che fosse arrivato il momento di Elena. Tanti progetti, poi all'improvviso quello schianto che cambia tutto, per un bicchiere di troppo, per un cellulare che suona, per un messaggio da scrivere, per la droga. E allora all'improvviso si ferma ogni sogno e in quelle case, le case soprattutto di ventenni morte nelle strade, resta solo il vuoto. Un morto e 5 feriti e questo è il triste bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale Catania. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite e questo è il bilancio di un drammatico incidente stradale. Un tempo si chiamavano le stragi del sabato sera e a me questa espressione, non so perché, mi suona da anni 80-90 quando appena adolescente ascoltavo i TG e uso di proposito questa espressione perché anche se a lungo quasi non se n'è più parlato sui media salvo sporadici casi particolarmente drammatici, salvo specifiche questioni intorno alle nuove norme, la questione era come sparita dai radar collettivi. Come se quello fosse ormai un problema quasi risolto, o meglio confinato ai dolori dei singoli. La cronaca brutale degli ultimi mesi, per quelle strane coincidenze che hanno avvicinato nel tempo casi molto diversi, capaci però comunque di colpire l'emotività, ci hanno invece ricordato a tutti che il tema riguarda ancora tutti noi con la stessa urgenza di 40 anni fa. Secondo quanto ci ha riportato l'Istat, che è una statistica che riprende i dati relativi al 2018, l'ultima disponibile, abbiamo avuto un 3.334 vittime, che sono pur sempre 9 vittime al giorno se facciamo il conto durante tutto l'anno, ma è un dato che va in diminuzione rispetto a quello del 2017, dove avevamo registrato 3.378 vittime. 9 vittime al giorno, come se in soli 3 giorni sparisse del tutto una classe di studenti. Come se in tutto l'anno fosse annientato un intero borgo di 3.334 anime. Ecco che allora, davanti all'impatto dei numeri snocciolati per noi dalla polizia stradale, la questione si impone con urgenza e quelli del 2019 non vanno certo in una direzione rassicurante, visto che in questo bilancio di polizia e carabinieri manca ancora la quota significativa della polizia locale. Nel tempo gli incidenti mortali sono diminuiti, ma le vittime restano troppe. Nel 2019 sono stati, secondo i dati di Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, 70.801 gli incidenti, fino al 15 dicembre in leggerissima diminuzione, come pure le vittime, 1.566, più di 2.300.000 le infrazioni contestate dalle pattuglie, 685.000 le violazioni accertate per eccesso di velocità, con 61.000 patenti ritirate e 74.000 carte di circolazione. Per quanto riguarda l'alcol, sono stati 23.000 l'anno scorso gli autisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, più 2% rispetto al 2018, mentre sono diminuiti quelli denunciati per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Restano le stragi del sabato sera, come la cronaca anche recente ricorda. Solo l'anno scorso sono stati 148 gli incidenti mortali, con 178 vittime. Tantissime, anche se comunque 11 in meno rispetto al 2018. E su questo fronte, questo 2020 non è di sicuro iniziato bene. Tutti noi guidiamo e voi che ci state ascoltando molto probabilmente lo state facendo anche in questo istante. E a tutti noi è capitato purtroppo di incrociare un incidente non di rado mortale, molto spesso con giovanissimi tra le vittime. Giovanissimi che bevono e poi si mettono al volante. Tanto il tratto è breve, tanto io lo reggo l'alcol, tanto vado piano, come spesso ripetono. Sono infatti loro, conferma Alessandro Abruzzini, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, Servizio Stradale, i più esposti e le vittime privilegiate della strada. Assolutamente sì, sono quelli più colpiti, considerando anche il fatto che la maggior parte degli incidenti mortali si verificano di notte e di notte quelli che stanno più sulle strade sono i più giovani. La fascia di età più colpita è quella che va tra i 40 e i 55 anni. Occorre dire che anche la fascia di età dei più giovani, quindi dei ragazzi che vanno dai 19 fino ai 25-29 anni, eppure molto colpita. Si è fatto tantissimo, si è introdotto l'omicidio stradale, però restano comunque tantissime le vittime sulle strade e restano comunque, come abbiamo appena detto, tantissimi i giovanissimi che perdono la vita. Lei ha detto la maggior parte degli incidenti succedono di notte. Possiamo dire che si ritorna a parlare un po' come si faceva molti anni addietro di stragi del sabato sera? Purtroppo le stragi del sabato sera o le stragi della movida non sono mai finite. Si è avuto un ottimo calo degli incidenti e da quando si è iniziato a fare la campagna di controlli che le forze dell'ordine unitamente fanno nelle notti tra del venerdì e del sabato di tutti i fine settimana. Però si muore ancora tanto, si muore nelle notti del fine settimana e gli ultimi incidenti che sono avvenuti tra la fine di dicembre e i primi giorni di quest'anno naturalmente ne sono la testimonianza. C'è da registrare che sebbene nel corso degli anni, dal 2000 al 2018, siamo arrivati alla metà dei morti che si sono registrati sulle strade, tuttavia dal 2010 ad oggi questa riduzione ha cominciato a ridurre di velocità. Leggo dai vostri dati che dall'inizio dell'anno 2019 all'8 dicembre Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno rilevato appunto nel sabato sera 148 incidenti mortali con 178 vittime, effettivamente una strage infinita. Perché secondo lei, perché ad un certo punto sono ritornati ad aumentare? Perché c'è meno sensibilità? Perché le macchine sono diventate strumenti anche di distrazione? Perché sono più potenti? Perché secondo lei? Innanzitutto la circostanza che nel momento in cui si prende coscienza di un fenomeno come quello dell'incidentalità stradale, si analizzano le cause e si iniziano a prendere delle contromisure per evitare che queste cause continuino a fare dei morti sulle strade. Quando questo fenomeno si protrae nel tempo, il dato numerico si assesta, per poi continuare magari a scendere in maniera meno significativa rispetto al passato. Faccio un esempio: dal 2000 al 2010 un elemento fondamentale che ha contribuito a ridurre le vittime sulle strade è stata l'introduzione dei tutor nelle autostrade. Ecco, una volta che grazie a questo sistema si è arrivati a un dato dell'incidentalità di quel tipo, naturalmente da quel momento in poi la diminuzione del numero si fa sempre meno significativa. Il tema quindi è che quando, diciamo, non viene più percepito come un'effettiva minaccia, si abbassano le difese e quindi in qualche modo per questo anche diventa più frequente questo tipo di incidenti, un po' come succede anche per altri aspetti, come sì, può essere il rischio contagio da HIV o la percezione rispetto alle droghe. Naturalmente l'efficacia di quelle misure che erano state prese appunto agli inizi del fenomeno delle stragi del sabato sera, col trascorrere del tempo naturalmente hanno perso un pochettino di validità, di efficacia. Inoltre volevo aggiungere, proprio con riferimento alle cause dell'incidentalità stradale, che secondo me è iniziato a diffondersi più largamente l'uso del telefonino e soprattutto degli smartphone. Infatti la distrazione, secondo Istat, è la prima causa di incidente stradale. Ma di questo, del fattore smartphone, cioè, e della distrazione, il reato di omicidio stradale non tiene conto a sufficienza, parola di esperti. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24. La passione si sente anche in podcast. I racconti di storiacce. Forse avrò trascorso quella maledetta strada migliaia di volte, avanti e dietro. A Francesco da mamma Angela. Il 28 ottobre saranno 10 anni. Ha inteso esternare il suo dolore e la sua angoscia. Confidiamo che anche il suo stato d'animo meriti un minimo di rispetto, come meritano rispetto ovviamente i dolori. Il trend è cominciato a cambiare quando anni fa si cominciò a contestare agli autisti il reato di omicidio volontario, con quello che in gergo tecnico si chiama dolo eventuale, ossia il rischio che accetta di correre chi si fosse messo al volante ubriaco e avesse finito poi per provocare delle morti. Poi nel 2016 ecco la svolta, con l'introduzione del reato di omicidio stradale. Ma oggi, neanche 4 anni dopo, davanti a numeri che, come abbiamo visto, non registrano quell'auspicato dimezzamento delle vittime, ecco che una falla si impone sulle altre, una non sufficiente valutazione della distrazione, denuncia Francesco Cozzi, procuratore di Genova, tra le toghe più attente al tema. Purtroppo non mi risulta che in Italia, e questo lo trovo grave, in un paese che ha il doppio delle morti, ad esempio del Regno Unito, no? Noi abbiamo circa 3.400 morti all'anno per incidente stradale, a fronte di dati, non so, del Regno Unito, che ne hanno 1.700-1.800. Noi qui a Genova abbiamo verificato i casi di omicidio stradale successi dopo il febbraio 2016, data di entrata in vigore della legge, certo, sull'omicidio stradale. E mettiamo abbiamo 50 casi, d'accordo, fino a qualche mese fa, siamo andati a esaminare tutte le sentenze e soltanto una percentuale molto bassa di questi casi qui era riconducibile all'aggravante o comunque all'uso di sostanze stupefacenti alcoliche. Erano molto più frequenti i casi di guida con distrazione, di guida con omessa precedenza, soprattutto agli automobilisti e ai pedoni, a cui si tagliava regolarmente la strada o che non venivano visti e investiti, oppure all'alta velocità, soprattutto distrazione, ad esempio, per l'uso del cellulare, che è sanzionato del tutto inadeguatamente. Cosa voglio dire? Che per quanto chi vi parla sia abbastanza rigoroso e severo nella valutazione di questi comportamenti, richiederebbe un atteggiamento più laico, più scientifico anche nell'analisi, nel monitoraggio di questi fenomeni. E comunque sia, non serve anche in questo caso qui invocare ulteriori strette, certo. Ulteriori strette, perché non hanno un effetto deterrente. Io mi occupo di circa 1000-1200 casi di violazione del codice della strada all'anno, d'accordo? In moltissimi casi emerge la non consapevolezza delle conseguenze gravi a cui si espone il soggetto ponendosi alla guida in stato di ebbrezza. Come lei già ricordava, la prima causa di incidenti mortali è appunto quella della distrazione ormai. La mia domanda è questa: la legge sull'omicidio stradale è scritta in modo tale da contemplare in modo sufficiente anche questa circostanza? Come... No, ad esempio non c'è alcuna aggravante della guida con l'utilizzo di cellulare o di altri apparecchi del genere, cioè senza il Bluetooth, senza il viva voce e quindi in condizioni praticamente di distrazione, perché è più impegnato magari a rispondere ai messaggi o vocali o digitali che non a pensare alla guida, a quello che sta succedendo. Questo, cioè, è quindi, molto grave. Facciamo un esempio concreto, procuratore: se per caso quindi un conducente ha un incidente stradale e purtroppo c'è una vittima e si accerta che questo incidente è collegato in qualche modo all'uso della cellulare, non c'è un aggravante, ma a questa persona verrebbe comunque contestato il reato di omicidio stradale. Sì, ma nella forma molto meno grave, perché ha violato una regola del codice della strada, che è quella appunto di guidare senza utilizzare apparecchi di tipo telefonico, senza il viva voce o quant'altro. Quindi di pene come si traduce? Si traduce in una pena molto più bassa. Lei faccia conto che l'omicidio stradale con l'aggravante dell'abuso di alcol sopra 1,50 è punita con l'arresto in flagranza obbligatorio da 8 a 12 anni o da 5 a 10 a seconda che si tratti di conducenti di una certa categoria oppure un'altra, mentre nell'altro caso è punito con la pena, mi pare, fino a 7 anni di massimo nel caso, cioè, di guida per distrazione, per l'uso di cellulare. Stava parlando al telefono, stava litigando con l'amico, con la moglie, aveva le mani impegnate, quanti ne vediamo? Ma basta che lei vada in autostrada, guarda quanta gente sta usando il cellulare mentre guida e sbandano anche da una corsia all'altra. Certo, e poi la scrittura dei messaggi è soprattutto la cosa più pericolosa. Questo punto abbiamo fatto, come altre procure, anche una direttiva precisa, per cui quando emerge che l'incidente è riconducibile comunque all'utilizzo di apparecchio di questo tipo, il cellulare va richiesto, va al conducente, va sequestrato nel caso di rifiuto per verificare se fosse in uso al momento in cui si è verificato l'incidente. E infatti questo è successo anche in casi recenti di cronaca, ma secondo lei la norma andrebbe adeguata rispetto al tema della distrazione? Dovrebbe essere stabilita una sanzione molto più grave di quella attuale nel caso di utilizzo del cellulare da parte di un conducente nelle forme vietate. C'è una sanzione amministrativa che arriva, credo, a 500-600 euro al massimo, oblazionabile con molto meno, credo, con un terzo del massimo, mentre sono situazioni, queste sì, di veramente di gravissima messa in pericolo. Non si ha il tempo di reazione sufficiente per reagire. Come spesso succede, a volte le cose cambiano o vengono accelerate per l'effetto di casi specifici che colpiscono l'opinione pubblica. Così, ad esempio, il Viminale ha appena annunciato un accordo con l'ANCI per coinvolgere le polizie municipali nella viabilità urbana, ciò che fino ad ora svolgeva solo la stradale. Questo significa, tra l'altro, più persone nei controlli, anche per tutti noi che alla guida troppo spesso ci lasciamo distrarre dai beep delle notifiche degli smartphone e non dovremmo. colpa nostra, ovviamente, ma se si vanno a guardare le date e i trend degli incidenti, si nota anche che nel frattempo le auto, riflette Andrea Ferro, conduttore di autotrasporti su Radio 24, sono diventati sempre più anche dei luoghi di intrattenimento, e questo forse spiega anche perché la maggior parte degli incidenti, quelli peggiori soprattutto, non si verifichino in autostrada, ma in strade secondarie. L'Unione Europea nel 2010 aveva posto un obiettivo estremamente ambizioso: dimezzare il numero delle vittime della strada in 10 anni, quindi entro il 2020. Non ci siamo arrivati a questo obiettivo, il calo delle vittime della strada è intorno al 20%, un dato comunque significativo. C'è stato un calo dal 2001 al 2015 costante, poi si è arrivati nel 2015 quando c'è stata un'inversione di tendenza, è tornato il segno più, poi c'è stata una stabilizzazione. Vuol dire quindi che evidentemente quello che si poteva fare è stato fatto, ma non è stato sufficiente a raggiungere l'obiettivo che l'Unione Europea aveva posto. Anzi, siamo ancora molto lontani, mi sembra di capire. Assolutamente sì, perché avremmo dovuto scendere da 4.000 a 2.000, e l'ultimo dato definitivo disponibile ci dice che i morti della strada sono stati 3.334, significa quindi che il calo, come dicevo, è stato solo del 20%. Entriamo dentro le nostre auto, nel senso che anche la polizia stradale ce lo dice, la distrazione purtroppo è la prima causa di incidente stradale. Siamo distratti dai nostri smartphone, siamo distratti da tutti gli optional che le nostre auto ci offrono, siamo distratti anche, non so, da un navigatore. Le auto di nuova generazione sono un po' anche delle stazioni di intrattenimento, nel senso che l'auto è sempre più confortevole, ci sono una serie di condizioni che devono rendere il viaggio appunto sempre più gradevole, meno pesante, e quindi la tendenza a interagire con i vari dispositivi. Tu prima citavi il navigatore, che chiaramente è uno strumento considerato ormai indispensabile. Beh, il navigatore, nel momento in cui io pongo l'attenzione sulla cartina per capire se ho capito bene quello che mi ha detto la voce, beh, in quel momento io comunque svolgo lo sguardo non sul tragitto e quindi sulla strada, ma l'ho perso qualcos'altro, e si sa, bastano veramente pochi attimi per determinare le condizioni di alto rischio, fino a che non si arriva addirittura all'incidente. Molti altri sono i fronti quando si parla di incidenti stradali, e spesso ogni testimonianza diretta porta alla luce aspetti diversi. E allora torneremo ancora su questo tema anche la settimana prossima, a partire proprio dalle testimonianze che voi vorrete mandarci, con messaggi vocali preferibilmente o con email. Allora vi aspetto, a domenica prossima. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. In regia Paolo Corleoni. Per riascoltare questa e tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Seguiteci e scriveteci anche con vostre segnalazioni e commenti sulla pagina Facebook di Storiacce o via mail. Ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account Raf Calandra. A domenica prossima.